sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Nuove sfide tecnologiche per la sicurezza, dall'utilizzo dei droni alla cyber security. Nuove tecnologie al servizio della collettività, in particolare dei droni, i velivoli radiocomandati con pilota remoto, molto utili per le riprese video aeree e molto utilizzati per il controllo del territorio, il monitoraggio dei criminali, l'analisi dei terreni e la ricerca di dispersi dopo una calamità naturale. Presente al convegno il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Stiamo osservando che sempre più sta entrando nell'immaginario generale l'idea che esistano i droni. Noi ne parlammo alla radio, mi ricordo, un anno fa circa, e la gente ci ascoltava come se parlassimo di qualcosa che apparteneva a un'epoca ancora da venire. No, oggi di droni si parla comunemente, si parla nelle cronache quotidiane che ci vengono dai luoghi di maggior tensione bellica. I droni sono degli aerei o dei simulacri comunque volanti che permettono di intercettare, fare foto e anche colpire degli obiettivi. L'attacco in questo momento più preciso e perlomeno più raccontato dalle cronache viene fatto nei luoghi del Califfato, quell'area fra Siria e Iraq che sembra il teatro del pericolo maggiore per l'Occidente, è fatto attraverso droni, cioè non si interviene direttamente nel territorio di guerra, ma arrivano questi aerei volanti, colpiscono un obiettivo, lanciano un missile, fanno delle foto e via dicendo. Leggo stamattina sui giornali che anche Putin si sta preparando alla guerra organizzando i droni. I droni sono anche strumenti che in realtà però appartengono al quotidiano hobbistico di molte persone a diverso tempo. Sono dei piccoli apparecchi che volano, quasi dei piccoli elicotteri con quattro eliche, per spiegarlo in maniera molto, molto sommaria, che usano papà con i figli la domenica per andare nei parchi, farli svolazzare. Molti, anzi la maggior parte, sono dotati di una macchina digitale controllabile da remoto, dal telecomando, lo spiego e non ridiscano gli esperti che hanno in mano le persone. Come una volta si guidava un aeromodello, si possono scattare foto. Agenzie fotografiche sono già organizzate per fare servizi fotografici con il drone. Molti matrimoni, oltre ad avere la camera fissa, la seconda camera, il controcampo, la ripresa sotto la gonna della sposa, hanno anche la ripresa con il drone, cioè dall'alto si vede tutto il corteo nuziale, si vede le persone, gli invitati, l'entrata, l'uscita dalla chiesa. Quindi è entrato questo nell'immaginario generale. Ma oltre all'uso civile del drone che usiamo come attività ludica, sta cominciando a entrare proprio nel mercato l'idea che il drone sta diventando un oggetto molto utile e interessante. In particolare mi ha colpito ieri un comunicato stampa che mi è arrivato, di cui oggi parlerò, di un drone che sta per essere messo a punto e presentato alle forze di polizia, a chi si occupa di sicurezza nel nostro paese, come strumento di possibile, diciamo, contrasto al terrorismo. Ci stiamo tutti chiedendo quanto si darà seguito in realtà alle minacce che vengono fatte anche verso il nostro paese di terroristi organizzati. Ci colpiremo Roma, colpiremo il Papa, colpiremo il Vaticano, cioè tutti ci immaginiamo che qualcosa possa succedere, e vedo una foto di questa presentazione, naturalmente un fotomontaggio, in cui si vede questo aeroplanino che fluttua intorno alla cupola di San Pietro come mezzo di contrasto al terrorismo. Beh, oggi vorrei su questo capire meglio cosa sta succedendo e quanto il drone, da oggetto di chiara operazione bellica, può diventare anche un oggetto antiterrorismo. Luciano Castro, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno. Luciano Castro, non sono direttore di niente, figuriamoci, magari, sono stato in passato giornalista e presidente di Roma Drone. Tu stai organizzando, diciamo, questa giornata in cui, da quello che mi sembra di aver capito, rappresentanti anche delle forze di sicurezza guarderanno con interesse quello che è un modello di drone che può essere pensato e studiato per un'operazione di controllo e contrasto anche al terrorismo. Me lo spieghi un po' meglio? Sì, stiamo parlando di una delle conferenze del ciclo Roma Drone Conference che sta tenendo nella città di Roma già da alcuni mesi, ed è corretto, questa è una delle applicazioni più interessanti, anche se forse tradizionali, storiche, dei droni, di questi velivoli radiocomandati o televidati che dir si voglia. Diciamo che i droni in particolare nascono in ambito militare già nella prima metà del secolo scorso, ma avevano dei costi di accesso che erano disponibili quindi all'utilizzo solo per i governi e per le forze armate. Negli ultimi tempi, come ben dicevi nella tua introduzione, il drone è entrato nella nostra vita, i costi sono abbassati, la tecnologia l'ha reso disponibile anche ai ragazzi che giocano nei parchi, tanto più queste macchine sofisticate possono essere utilizzate per le applicazioni più diversificate. Tanto che è stato necessario, ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate, una normativa che stabilisse che avere un drone e poter usare un drone è richiesta alcune, diciamo, certificazioni, sennò chiunque potrebbe con un drone fare qualunque cosa. Esatto, c'è una regolamentazione ormai in vigore da un anno in Italia, redatta dall'ENAC, che è l'ente per l'aviazione civile, e proprio quel genere di applicazioni, aprendo una piccola parentesi, quel genere di applicazioni che tu indicavi nei matrimoni sono applicazioni illegali, nel senso che per poter svolgere quell'attività ci vorrebbero delle autorizzazioni. In effetti questi fotografi di matrimoni utilizzano questi mezzi sulle teste degli sposi e degli invitati, e questo naturalmente potrebbe creare dei problemi di sicurezza, potrebbe creare dei danni. Ma c'è stato un momento, diciamo, di vacatio legis, un anno fa quando cominciamo a parlarne ancora non era ben chiaro cosa fossero e il legislatore si stava muovendo, oggi forse è un po' cambiato, sì. Sì, insomma, iniziano le forze dell'ordine soprattutto a sapere come comportarsi, e presto sicuramente la normativa sarà applicata e ci saranno anche delle sanzioni. Chi non ha bisogno di regolamenti e chi certamente non sarà multato sono i mezzi che potranno essere utilizzati presto, e in parte sono già utilizzati dalle forze dell'ordine e dai corpi armati dello Stato. Ecco, cosa fanno nello specifico questi droni? A cosa servono e come funzionano? Esistono due grandi categorie di droni, ad ala fissa, quindi dei piccoli aeroplanini, e ad ala rotante, quindi dei piccoli elicotteri. Possono sostituire e in parte creare dei servizi innovativi altri velivoli, altri mezzi che vengono utilizzati soprattutto per osservare dall'alto senza essere visti ciò che avviene sul territorio. Tanto per fare un esempio, nell'occasione delle grandi manifestazioni di folla, dei grandi cortei sindacali o meno nelle nostre città, spesso c'è un elicottero, almeno un elicottero sulle teste delle persone che gira. Quell'elicottero è dotato di una telecamera e ritrasmette alla centrale operativa della questura di competenza le immagini del corteo. Questa attività, che ovviamente è costosa perché un elicottero comprende due piloti, l'operatore, tutto un sistema intorno a quella macchina, la macchina di per sé è molto costosa, in un prossimo futuro potrebbe essere sostituita da un oggetto radiocomandato molto più piccolo, molto più economico, che potrebbe però realizzare lo stesso servizio. Quindi non è proprio un'immagine di fantasia un drone ad ala fissa che sorvola San Pietro e sorveglia quello che può essere il principale obiettivo in questo momento del terrorismo di matrice islamica. È stato già fatto, proprio parlando di Roma, quando il presidente Obama venne a visitare l'Italia e venne a Roma. È noto che l'aeronautica militare rese disponibile un Predator, che è il fratello più grande di questo drone di cui stiamo parlando, che si chiama FlySecure, che è ovviamente molto più piccolo. L'aeronautica militare, col suo 32° Stormo, rese disponibile un Predator che a quote elevate, quindi invisibile a noi cittadini che passeggiavamo per le vie della capitale, teneva sotto controllo il corteo presidenziale, tutta la situazione vicina. Ecco, fermati un attimo, 800240024, vi siete fatti una conoscenza ulteriore rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato di droni? State operando con i droni? Avete interesse comunque a sviluppare la conoscenza dei droni? E vi sentite soprattutto maggiormente tranquilli e sicuri dagli attacchi terroristici pensando che c'è un drone che vi sorvola? 800240024. Gianandrea Gagliani, buongiorno. Buongiorno a Gianandrea Gagliani, già sento che sta sorridendo. Dirige il mensile web analisidifesa.it, si occupa di analisi storico-strategica e studio dei conflitti internazionali, e collaboratore anche del Sole 24 Ore. Ti fa sorridere l'idea del drone che sorveglia terroristi? No, non mi fa sorridere, perché è una immagine che io ho già visto quando sono stato nei teatri operativi afghani, prima ancora in Iraq, dove questi aerei, ovviamente quelli più grandi, quelli in dotazione all'aeronautica militare, sono stati impiegati. sono quelli che sparano però anche, diciamo. No, i nostri no, perché ci siamo fatti fregare. Noi abbiamo comprato i droni americani, i Predator e poi i Predator più grandi, noti anche come Reaper, americani, e loro dovevano venderci anche i kit di armamento per mettergli sotto bombe a guida GPS, invece... missili, e poi non ce li hanno venduti perché... E che c'ha la cerbottana, cioè cosa servono? No, servono, hanno solo dei sensori, non sono armati i nostri. Gli americani hanno deciso di vendere gli armamenti, la via libera agli armamenti sui loro velivoli teleguidati, i loro droni, soltanto ai britannici. E che tipo di armamento ha un drone di quel tipo? Cosa può fare? Beh, può portare, ad esempio, i britannici gli hanno messo sopra dei missili aria-terra, dei Brimstone, che sono perfettamente in grado di distruggere bunker, veicoli, anche veicoli corazzati. Li hanno usati con gli aeroplani, ad esempio, per distruggere veicoli corazzati e bunker durante la guerra in Libia. Sono quelle armi che usano gli americani per colpire i leader di Al-Qaeda quando li trovano nello Yemen o in Somalia. Sono armi molto precise. Esistono questi sono quei droni, per dirlo in termini semplici, abbastanza voluminosi. Esistono no, dei piccoli voluminosi, sono grandi, dei piccoli droni in realtà che possono essere anche usati per uno scopo di questo tipo, cioè possono essere letali. Anche militarmente si usano i mini drone, ce ne sono alcuni che sono grandi come aeromodelli, sono quelli di cui state parlando questa mattina, e li usano per la sorveglianza tattica. Faccio un esempio: la colonna militare che si muove in Afghanistan, in aree desolate, deve passare attraverso una gola stretta e sospetta che sopra sulle montagne si possa essere un'imboscata tesa dai talebani. Allora monti questo aeromodello, ad esempio il Raven, che è impiegato dal nostro esercito, lo lanci proprio con la mano, come si faceva una volta con Aliante, quelli lì. Come Aliante, sì. A questo ovviamente ha un motore, ha un'autonomia di volo di superiore all'ora e sorvola quella zona trasmettendo all'operatore, che ha un laptop, ha un computer portatile semplicissimo, le immagini che la sua telecamera riprende. In questo modo si verifica che il passaggio sia sicuro, non ci sia un'imboscata, qualcuno pronto a tendere imboscate, e la colonna può proseguire. L'aeroplano a terra, l'aeromodello a terra, viene recuperato come si recuperavano quando eravamo ragazzi io e te, probabilmente gli aeromodelli, gli alianti che lanciavamo. Quindi con l'elica, con l'elastico. Che esattamente. Ma fermiamoci solo un istante, diamo il traffico. Mi interesserà sapere oggi con i nostri ospiti quanto in realtà possono essere impiegati, al di là degli scenari bellici. Abbiamo visto in American Sniper che usano anche lì il drone per capire e vedere l'obiettivo dall'alto prima di avventurarsi in una zona infestata comunque da nemici. Quanto possono essere usati attivamente come contrasto al terrorismo nelle nostre città. Melog, cronache meridiane. Si era persa una persona anziana, non lo trovavano neanche i cani molicolari. Siamo alzati con i droni, siamo andati su un canalone impervio. A un certo punto abbiamo visto un piede e una scarpa, abbiamo immediatamente comunicato ai vigili del fuoco che con le corde sono scesi, hanno trovato la persona che era svenuta, che si era sentita male ed era caduta nel canelone, anziana ovviamente, l'hanno soccorsa, l'hanno portata su e si è salvata. 800240024, questa mattina parliamo di un nuovo modello di drone che sarà presentato a Roma tra qualche giorno, all'attenzione delle forze armate, le forze di sicurezza, per essere usato anche come strumento di contrasto a probabili attacchi del terrorismo, visto che siamo sotto mira, o perlomeno sotto minaccia da parte dell'ISIS, si stanno attrezzando usando anche i droni, che sono usati normalmente per lo stesso uso però in teatri più propriamente dove si svolgono combattimenti. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io pensavo che invece i droni possano diventare molto utili per quelle cose che ha detto, ma diventeranno un problema perché è un sistema facilissimo da usare per fare attentati, si può fare a distanza, si possono, diciamo così, utilizzare droni fatti anche in casa, e quindi sarà un problema fare controllare chi fa gli attentati con i droni. Anche questo è vero, io mi ricordo la prima volta parlammo di droni a questi microfoni, io domandai all'esperto, io mi trovo a Piazza Indipendenza, potrei far partire un drone dal mio terrazzino e farlo sganciare una bomba sopra il Quirinale? Mi disse, ma teoricamente in questo momento se partisse nessuno se ne accorgerebbe e questo succederebbe, è passato un anno, oggi magari stanno più attenti, ma può esserci questo problema. Sentiamo Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. La stessa identica domanda dell'ascoltatore che mi ha preceduto, per cui la mia paura è che anche i mini droni possano essere utilizzati dai terroristi per compiere atti nel territorio nazionale, a tutto vantaggio appunto dell'utilizzo di kamikaze, eccetera. È la stessa paura che ho io per lo stesso identico mezzo. Però l'attentato con il drone non procura le vergini in paradiso, forse gli conviene farsi saltare. Sì, esatto. Gianandrea Gagliani, cosa ne dici di questa diciamo, preoccupazione degli ascoltatori, che il drone può essere anche usato? Ti risulta che sia stato usato finora un drone per attentati terroristici? Sinceramente non ricordo una cosa del genere, però diciamo questo, che come un aereo modello e anche un drone, anche se è un mini drone, parliamo di questi piccolini che insomma non possono volare anche a pochi metri di quota nelle nostre città, quasi invisibili, perché non parliamo dei grandi droni, ma un'arma del genere è stata usata, se ricordo bene, gli Hezbollah libanesi hanno usato una volta, adesso non vorrei sbagliare, vado a memoria, i loro droni che sono di origine iraniana, imbottendolo di esplosivo. La cosa è possibile, ovviamente con un mini drone che pesa molto poco, la carica di esplosivo che ci puoi caricare è molto limitata, però insomma le tecnologie si sviluppano, e quindi io vedo che ad esempio in Italia noi abbiamo realizzato dei droni anche di dimensioni considerevoli come i Falco, che sono disarmati e che sono stati adottati dalle Nazioni Unite, e li usano i caschi blu in Congo per controllare i movimenti dei ribelli lungo zone boscose, giungle che sarebbero impossibili da pattugliare con truppe terrestri o con veicoli. E quindi insomma, io credo che l'impiego principale almeno da parte nostra sia quello, perché alla fine il drone cosa ti serve? Ti serve in maniera silenziosa per controllare il sospetto terrorista. Tu hai individuato il Coulibaly della situazione, per fare un riferimento agli attentati, agli attacchi terroristici in Francia. Segui la sua auto con un drone che lo tiene sotto controllo con le sue telecamere, trasmettendo i dati, e nel momento in cui ritieni che la situazione sia abbastanza tranquilla, magari un incrocio isolato senza passanti, dai il via libera alle auto della polizia per bloccarlo, intercettarlo, esponendo di meno al rischio di essere coinvolti nello scontro a fuoco i passanti o le persone. Anche perché finalmente le immagini, ad esempio, degli attentati di Parigi sono state girate da persone che erano per strada, giornalisti sui tetti. E ci fosse stato un drone, avremmo avuto comunque a tempo reale, o forse chi doveva operare, non tanto noi. Però Gianluca, c'è anche un altro aspetto, io ci tengo a sottolinearlo: le forze armate hanno stipulato un accordo, l'aeronautica, con le forze di sicurezza per mettere a disposizione i droni, i Predator, che noi abbiamo usato ad esempio. E stiamo ritirando in questi giorni da Djibouti per 4 mesi un nostro Predator, un nostro drone ha controllato i pirati somali che non andassero ad attaccare i mercantili nell'ambito di un'operazione antipirateria europea. Però pensiamo anche a questo: se il drone militare impiegato per sorvegliare il talebano viene impiegato sulle nostre città, beh, certo ci aiuta a controllare il Coulibaly o il terrorista che si muove per la città una volta che abbiamo capito che lui potrebbe essere un terrorista, quindi controlla la pedina, la persona al posto di un'automobile o di un elicottero molto più visibile, costoso e rumoroso, però è uno strumento che consente, che riduce a tutti potenzialmente la privacy. È un atto di rinuncia che la collettività deve sentirsi in grado di poter fare, come le telecamere di sorveglianza e via dicendo. Torniamo a Luciano Castro, che è il presidente di Roma Drone, che presenterà questo drone particolare destinato comunque al contrasto al terrorismo. Ci dici velocemente quali sono le sue funzioni, le sue caratteristiche, cosa potrebbe fare? Allora, bisogna immaginare che è un aeroplanino che ha un'apertura alare di circa 2 metri e un peso di circa 1,5 kg. È fatto di una materia tipo il polistirolo ma molto più resistente ed è stato sviluppato da un'azienda italiana, anzi romana, che si chiama Flytop. Sul muso questo oggetto ha una carena trasparente con una telecamera brandeggiabile, quindi che può ruotare a 360 gradi, e in coda invece ha un'elica che gli assicura la propulsione. Può essere lanciato, come diceva il il direttore Gaiani a mano o con una catapulta, è molto leggero, quindi non ci sono problemi di poter essere lanciato, e può essere pilotato da un unico operatore a distanza, fino a 30 km di distanza può andare questo mezzo, così dice l'azienda, anche con un semplice tablet. Quindi in teoria tutta Roma può essere messa sotto controllo da un unico aeroplanino? Questo sì, naturalmente bisogna vedere che tipo di uso se ne fa, e considerando che Roma ha moltissimi palazzi e molte aree bisognerebbe moltiplicarlo, ma vengono utilizzati, come ben diceva il direttore, vengono utilizzati in momenti specifici e per attività specifiche ben mirate. L'utilizzo già recentemente è stato firmato un accordo per l'utilizzo dei Predator da parte delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, con l'aeronautica militare, ma ovviamente è un mezzo pesante, importante e costoso. Qui stiamo parlando di mezzi più piccoli che possono essere utilizzati dalla singola volante che interviene su un'attività. Bisogna dire anche che esistono dei droni non a forma di aeroplanino ma di piccolo elicottero, vengono chiamati multirotori, e alcune polizie locali, ad esempio, saranno presenti alla Roma Drone Conference del 24 febbraio la polizia locale di Foligno e di Alghero, quindi stiamo parlando anche di due zone molto diverse, li hanno acquisiti e li stanno acquisendo per le rilevazioni per gli incidenti del traffico, cioè per fare foto aeree di zone di grandi incidenti automobilistici per poter documentare la dinamica dell'incidente. Quindi teoricamente noi potremmo, no teoricamente, concretamente già cominciare a vedere operativi questi mezzi al seguito di questa vostra conferenza, ammesso che loro li trovino convincenti. Sì, è solo una questione, diciamo, di impiego dello spazio aereo. Fino a pochi anni fa, come ben dicevi nell'introduzione, i droni non esistevano o non erano considerati. Adesso c'è questa grande moda tecnologica, non solo popolare, ma anche delle istituzioni nell'utilizzo di questi mezzi, che in effetti sono economici, hanno delle capacità molto interessanti a basso prezzo, e quindi bisognerà cercare di riorganizzare, lo sta già facendo l'ENAC e le organizzazioni internazionali, gli spazi aerei, in modo che da rendere disponibili degli spazi aerei per questi mezzi che a quel punto potranno essere agilmente utilizzati anche sulla nostra. Bene, la sigla ci porta via. Grazie Luciano Castro, grazie anche a Gianandrea Gagliani, sempre puntuale nelle sue informazioni sugli aspetti bellici. Ci sentiamo domani.